parchi, trovo un amico da queste parti. Parti, trovo un tesoro e ti qui vantarsi. Ma si rende conto subito che deve svegliarsi. Come fare a fidarsi? Falsi, eccelsi, estimatori, consiglieri fraudolenti. Gli amici veri sono come denti. Se non li curi poi marciscono, finiscono. Ti sguainano un pugnale dalla schiena e ti colpiscono. Rischiano, le orecchie ti fischiano. Come ine addolciscono, come niente ti sfruttano. Fingendosi d'aiuto a bisognosi, dopo aver somministrato loro dosi d'affetto. Come un lebbroso ti gettano, aspettano, tramano, progettano. Inganni degni di perfetto illusionista. Nell'amicizia il disinteresse non è lista. Nada pro nada, vada come vada, aggiungo che devi far da solo quando c'è lo spunto. Fotti bene del loro amore presunto, come dice un adulto del loro valore aggiunto. Nessuno, nessuno, domande di chi necessito. Faccio da solo e non chiedo prestito. Nessuno, nessuno, tra me la mia esistenza. Fanculo lucina di intermittenza. Nessuno, nessuno, tutti qui per il giudizio. Lasciami spazio fin dall'inizio. Nessuno, nessuno, su quest'isola regno. Chi mi invade è solo degno del mio disdegno. Hanno che dure come gioca sano sfascio. Solitudini traccio, non caccio. Faccio che faccio, spaccio. Sappiamo che se cerchi una mano devi guardare in fondo al braccio. Troppo facile seguire l'amico che dà consigli su come pigli sta vita, ma gli artigli non li userà come farà per aiutare i suoi figli. Quindi cerca nuovi appigli. Ciò che ti dico è non riporre la fede in nessun amico. Pensa alla famiglia, manco tanto tipo. So che hai sentito dire che i parenti strisciano come bisce viscidi nelle viscere. È verità lampante, esprimo la scelta tra nemico e amico, opto per il primo. Non amo chi mi loda come fossi Ludo Yoda. Alludo a chi mi illude con la faccia da beota. Giuda, in un modo da vari di marchettari. Valgo 10 denari perché gli affari sono affari. Magari vieni a scusarti, a rifarti. Il giorno che cadrai non verrò a seppellirti. Nessuno, nessuno, domandi di chi necessito. Faccio da solo e non chiedo prestito. Nessuno, nessuno, tra me la mia esistenza. Fanculo lucina di intermittenza. Nessuno, nessuno, tutti qui per il giudizio. Lasciami spazio fin dall'inizio. Nessuno, nessuno, su quest'isola regno. Chi mi invade è solo degno del mio disdegno. Amici, ma quali amici? Giudizi, cattivi auspici, mendaci, impostori, avvoltoi. Si posano su me, su te, su voi. Ma come puoi capire chi chiede perdone tra male spalle? Gente senza palle che parla per gonfiarle. Ogni sorriso finto, ogni interesse falso. Ogni pugnale nella schiena, nelle dita di marzo. Mi ha dato consapevolezza di ogni mio fottuto sforzo. Ora che tutto è perso, mi muovo verso il mio universo da terzo. Il cielo si fa azzurro quanto è immenso. Combatterò i miei demoni, tipi fasulli, dai gusti nulli, che provano ad indurmi a dare orecchio a pareri brulli e tulli. Vedi per terra con i loro sonagli, farli capire gli sbagli non conta. Affronta l'onta, se la rabbia è pronta smonta. Chi invece di vivere copia, criticando la tua vita è soddisfatto della propria. Nessuno, nessuno, domandi di chi necessito. Faccio da solo e non chiedo prestito. Nessuno, nessuno, tra me la mia esistenza. Fanculo lucina di intermittenza. Nessuno, nessuno, tutti qui per il giudizio. Lasciami spazio fin dall'inizio. Nessuno, nessuno, su quest'isola regno. Chi mi invade è solo degno del mio disdegno. Nessuno, nessuno, mi chiedi di chi necessito. Faccio da solo e non chiedo prestito. Nessuno, nessuno, autosufficiente, cauto, complimente, strapotente. Nessuno, e niente tornerà come prima. In realtà siamo sempre stati qua. Nessuno, sulla bocca di tutti regaliamo lutti ai vostri ego distrutti.